notizie in 60 minuti di Simone Spezia. È stato accolto il ricorso di Vincenzo De Luca. Può fare il presidente della Campania, almeno in questo inizio di legislatura, aprire la legislatura stessa, varare la giunta. Il 17 luglio l'udienza per la decisione di merito. La legge Severino va cambiata, dice intanto il presidente dell'autorità anticorruzione nella sua relazione annuale. Sui piani delle amministrazioni sono ancora insufficienti. Sulla Grecia parla Varoufakis, se vince il no al referendum riparte il negoziato, ma nell'accordo deve esserci la ristrutturazione del debito. Padoan dice, nonostante tutto, sono ottimista sull'Europa. In Tunisia una dozzina di arresti per la strage nel resort, mentre proseguono gli scontri tra l'esercito egiziano e l'ISIS nel Sinai. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, anche oggi in diretta da Expo qua a Milano, dal padiglione Cibus Italia, il padiglione di Federalimentare, e anche i temi che toccano parzialmente l'Expo andremo a toccare anche noi nel corso di questa trasmissione. Vi daremo conto e vi racconteremo di un'indagine della Caritas effettuata sul mondo dell'agricoltura italiana, in particolare su un pezzo del mondo, quello illegale, quello che sfrutta il caporalato, un'indagine su 1300 persone, la più vasta mai realizzata finora. Lo faremo nella seconda parte della trasmissione. Mentre arrivano in questi minuti ancora notizie dalla Grecia, un'importante notizia diplomatica, ossia che il presidente greco Prokopis Pavlopoulos ha annullato la sua visita di Stato al presidente tedesco che era in programma per martedì. Noi torneremo tra poco sulle vicende greche, ma intanto andiamo alla politica italiana. Politica italiana che oggi vede un tema importante al centro, la legge Severino e soprattutto la vicenda di Vincenzo De Luca, che governerà la Campania almeno per il prossimo paio di settimane. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora sì, Vincenzo De Luca si può insediare, può comporre la giunta della Regione Campania. Dopo giorni di discussione la questione sembra risolversi. La prima sezione civile del Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso d'urgenza di De Luca che chiedeva la sospensiva del decreto del Premier Renzi. Con il provvedimento del governo, lo ricordiamo, a seguito della legge Severino, si chiedeva la sospensione del neopresidente, un atto dovuto. Si sblocca comunque un vuoto di potere, De Luca può partecipare al primo consiglio, nominare la giunta e firmare gli atti. La seduta di insediamento della giunta si terrà il 9 luglio. Soddisfazione di De Luca, che si trovava nella sede del PD nazionale qui a Roma quando ha ricevuto la notizia, contesta il Movimento 5 Stelle. Per Luigi Di Maio è inutile cantare vittoria e bisogna liberarsi di De Luca il più presto possibile. Nel centrodestra ci si chiede se il tribunale si sarebbe comportato allo stesso modo con un rappresentante non del PD. E si allude ovviamente a Silvio Berlusconi. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. E oggi nella relazione annuale al Parlamento dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone ha parlato anche della legge Severino e ovviamente non solo di quella, fornendo anche numeri sull'attività e su quello che sta emergendo in questi mesi. Vincenzo Miglietta, Il Punto, buongiorno. Sì, buongiorno. È così una richiesta chiara quella di Raffaele Cantone. A meno di 3 anni dall'entrata in vigore della legge Severino si riscontrano problematiche e dubbi applicativi, dice il presidente anticorruzione nella relazione al Parlamento. Legge Severino e norme attuative, aggiunge Cantone, sono strumenti centrali di prevenzione, ma servono interventi legislativi per consentire una loro reale efficacia ed utilità. Quanto al tema più specifico della lotta alla corruzione, Cantone parla di piani insufficienti da gran parte delle amministrazioni in termini di metodo, sostenibilità e risultati ottenuti. Quindi il passaggio forse più delicato della relazione, la corruzione, ha effetti sociali, mina la democrazia, dice Cantone, ecco perché per combatterla serve il contributo di tutti. Ma sentiamo Cantone. La corruzione non può essere affrontata in modo unilaterale, ma richiede interventi plurimi e contestuali, una repressione che funzioni, una prevenzione capace di inserire nel sistema gli anticorpi e un cambiamento culturale che comporti una maggiore consapevolezza dei cittadini. Quindi il capitolo del commissariamento degli appalti incriminati, lo strumento ha dato risultati concreti, dice Cantone, e ha dimostrato che gran parte delle preoccupazioni espresse su di esso erano ingiustificate. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Veniamo dunque alla situazione greca. Come si diceva, la notizia di pochi istanti fa è che il presidente greco Pavlopoulos estrapolato la sua visita di Stato al presidente tedesco Joachim Gauck, che era prevista per il prossimo martedì. Nel frattempo stamattina è tornato a parlare il ministro dell'economia greco Varoufakis. Il punto con la nostra inviata ad Atene Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori, lo stavi raccontando tu qualche istante fa. Questa mattina Varoufakis è tornato a parlare in merito all'esito del referendum, ha detto rassegnerò le dimissioni se vince il sì, tutto il governo potrebbe dimettersi ma in uno spirito di collaborazione con chi verrà dopo. Non firmeremo nessun accordo senza la ristrutturazione del debito, ha aggiunto il ministro delle finanze. Se vince il no, riparterà il negoziato. Varoufakis in merito alle banche ha anche detto che sono perfettamente capitalizzate e apriranno martedì prossimo. Ancora in merito al referendum si è espresso anche Juncker, il quale ha detto i greci scelgano il loro futuro, e Dijsselbloem questa mattina ha rivelato che alcuni ministri delle finanze avevano già proposto ad Atene qualche mese fa di indire un referendum, se vincerà il no, ha avvertito Dijsselbloem, i negoziati non ripartiranno da zero. Valeria, volevo chiederti anche, avere un quadro da te e da Atene di com'è la situazione, come si stanno vivendo queste ore in città. Allora Simone, proprio in merito alle banche, visto che ne ha parlato anche Varoufakis, c'è da dire che sicuramente le file ci sono. È vero anche che non a tutti gli sportelli bancomat si verificano file, che comunque tutto sommato sono abbastanza contenute, 5-6 persone. Le banche oggi hanno parzialmente riaperto per permettere ai pensionati di riscuotere una parte della pensione e anche per permettere di fare qualche operazione bancaria ai correntisti. Bisogna però specificare che sono terminati i tagli da 10 e 20 euro, quindi non si può più prelevare i famosi 60 euro, ma siamo già a 50 euro. Per la città devo dire che la città comunque continua ad essere molto ordinata, molto pulita. Questa mattina ho fatto anche un giro al mercato di Atene, al mercato centrale di Atene, tutti i banchi erano provvisti, quindi questa scarsità di generi alimentari non si verifica. C'è invece scarsezza per quanto riguarda i medicinali, soprattutto per i farmaci generici e gli equivalenti, nelle farmacie si trovano molto poco. In città molto forte la presenza dei comitati per il no, qualche minuto fa mi sono imbattuta in una improvvisata manifestazione di ragazzi che gridavano no, no, ovviamente riferito al voto di domenica, mentre mi hanno detto che i comitati per il sì sono molto attivi sui social network e sui mezzi di informazione. Questo è l'aria che si respira in questo momento ad Atene. Grazie a Valeria De Rosa, torneremo a parlare di quello che sta succedendo in Grecia più avanti nel corso della trasmissione, soprattutto per analizzare le parole di Varoufakis e capire se effettivamente la frase che ha detto, ossia che se vince il no si torna al tavolo del negoziato, è credibile o, come molti ipotizzano, il no comporterà l'uscita dalla moneta unica. Un breve aggiornamento di borsa perché i mercati sono sostanzialmente fermi in attesa che succeda qualcosa. Milano è lievemente negativa, cede lo 0,09% sul FTSE MIB, Francoforte guadagna lo 0,16%, Parigi lo 0,09%. Intanto anche di Europa ha parlato il ministro dell'economia Piercarlo Paduan da Milano, dove si trova per un convegno al quale convegno che sta seguendo la nostra Anna Marino. Anna, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. Entra subito nell'attualità il ministro dell'economia Piercarlo Paduan nel suo intervento al convegno Finanza per la Crescita organizzato a Milano, appunto, da Intesa San Paolo, e fa una battuta sul dibattito di questi giorni sull'Europa, perché afferma il nodo è creare posti di lavoro. E sentiamo. La domanda vera non è se ci voglia più o meno austerità in questo o quel paese o in Europa nel suo complesso. La domanda vera è come si fa veramente in pratica a accelerare la crescita e la creazione di posti di lavoro? Questa è la domanda vera ed è anche molto più difficile da rispondere rispetto alla questione dell'austerità, che è un falso problema. La crescita non viene con bacchette magiche, soprattutto in una fase come questa. È il risultato di una politica complessa che deve far leva di tutti gli strumenti a disposizione. La crescita crescita infatti, sottolinea, deriva da azioni di governo, appunto l'elenca in tre punti facendo una battuta come da professore. Il primo è la politica di bilancio, e qui è evidente, diciamo, l'intenzione del governo di abbattere le imposte, per esempio sul lavoro, finanziando i tagli delle imposte con tagli di spesa in un contesto, sottolinea, di risorse limitate. Secondo, ci sono le riforme strutturali, e la politica di governo qui sottolinea ovviamente il fatto che non bisogna lasciarsi andare a scelte facili, cioè sì o no, sono scelte complesse. E poi infine la finanza per la crescita, che è l'oggetto del convegno di oggi, e qui richiama le misure chiamate giustizia per la crescita decise la scorsa settimana con la riforma delle banche popolari. E infine lancia un messaggio sul nostro paese, che è in fase importante, dice, ma non difficile, l'Italia è un paese alla frontiera, io continuo ad essere ottimista, crescerà. E da qui è tutto. Grazie Anna Marino, in diretta da Milano, per il racconto della parola del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Ora ci spostiamo a Monfalcone, come sapete è là che si trova lo stabilimento di Fincantieri, che è di fatto fermo dopo la decisione della Procura di sequestrare un'area, delle aree che sono di fatto dei depositi di materiali, una decisione molto controversa che, come avete sentito ieri nell'intervista che abbiamo fatto anche con i sindacalisti, sta creando molte perplessità anche dal lato sindacale. Vogliamo però sapere come si sta vivendo in questo momento la situazione proprio a Monfalcone, dove sono impiegate 4.500 persone nel cantiere di Fincantieri, 6.000 addirittura, come avete sentito, come vi abbiamo raccontato, quando le lavorazioni sono a pieno regime. C'è là Mariano Maugeri, inviato del Sole 24 Ore. Mariano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, com'è la situazione là? Guarda, è appena finita una riunione in prefettura Gorizia, convocata dal prefetto Giappalorto, che è stata preceduta da un'altra riunione sull'ordine pubblico e la sicurezza, quindi già questo potrebbe dare qualche indicazione del clima, no? Ci si prepara, anche se tutti si augurano che non sia necessario, al peggio. E c'è un clima di attesa, appunto c'è stato questo incontro tra il prefetto e i sindacati per capire quali novità arriveranno nelle prossime ore, e come sappiamo, come sapete benissimo anche voi, è da Roma che si attende un decreto che possa sbloccare la situazione, perché altrimenti qui insomma la situazione è incartata, è bloccata, cioè non c'è nessuno a livello locale che possa incidere su una sentenza della magistratura. E gli operai sono sul chi vive, il sindaco è sul chi vive, ha rilasciato una dichiarazione proprio ieri dicendo entro domenica questa vicenda deve essere risolta, non possiamo aspettare oltre. Gli unici a non parlare sono i 1.500-2.000 lavoratori delle ditte subappaltatrici, come abbiamo raccontato oggi sul Sole 24 Ore, sono per la maggioranza bengalesi, e poi c'è un'ampia rappresentanza di tutti i popoli balcanici. In che modo Monfalcone è un concentrato della globalizzazione? Fincantieri è sì un'azienda italiana, ma ha escogitato questo sistema, appunto, delle ditte subappaltatrici per essere competitiva sul mercato. I risultati sono arrivati, c'è un portafoglio ordini di oltre 2 miliardi con commesse che arrivano da armatori, vedi a Ponte, lo svizzero napoletano di MSC, che prima si rivolgeva ad altri cantieri in giro per l'Europa e adesso invece farà produrre le sue navi a Monfalcone. Grazie a Mariano Maugeri, inviato del Sole 24 Ore a Monfalcone. Apriamo adesso una pagina di Esteri per parlare di terrorismo, argomento sul quale torneremo tra poco col procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti, che sarà in diretta con noi per commentare anche l'operazione che è avvenuta ieri, della quale vi abbiamo parlato. E però andiamo innanzitutto in Tunisia, perché ci sono stati una serie di arresti per la strage sulla spiaggia. Sono 12 le persone arrestate oggi dalle forze di sicurezza tunisine. Almeno 8 di loro avrebbero avuto rapporti diretti con il responsabile della strage di Sousse, costata la vita a 38 turisti stranieri, in gran parte britannici. 3 uomini invece sono stati fermati a Sfax con l'accusa di appartenere ad una cellula terroristica collegata allo Stato Islamico. Un mandato di arresto poi è stato emesso nei confronti di altri 2 presunti terroristi che sarebbero stati addestrati in Libia Egea, assieme all'attentatore di Sousse e agli autori della strage del Museo del Bardo di Tunisi, il Ministero dell'Interno nel frattempo oggi ha deciso di rimuovere i responsabili della sicurezza nei distretti di Sousse, Monastir e Kairouan. Nei giorni scorsi il governo tunisino aveva ammesso che le forze di sicurezza non erano pronte a fronteggiare un attacco terroristico proveniente dal mare contro un sito turistico come quello avvenuto venerdì a Sousse. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo sul tema del terrorismo internazionale, in particolare dell'attacco coordinato che è avvenuto ieri sul Sinai contro l'esercito egiziano. Sono state attaccate una serie di postazioni, le vittime sono state oltre 100, da quel che si apprende dai media in queste ore gli jihadisti hanno usato armi molto sofisticate. Nel frattempo ieri i fratelli musulmani in Egitto hanno chiamato alla rivolta contro il generale al-Sisi. Per un'analisi abbiamo in diretta Ugo Tramonti, inviato del Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno, e come leggi questa situazione? Buongiorno. Beh, intanto bisogna vedere quali fratelli musulmani hanno chiamato appunto la fratellanza egiziana alla mobilitazione armata, perché oramai i fratelli musulmani senza alcuno spazio politico si sono parcellizzati e sempre di più, come dimostrano anche gli avvenimenti del terrorismo, sempre di più stanno scegliendo, in mancanza di uno sbocco politico che anche Mubarak concedeva, seppure limitato, concedeva ai fratelli musulmani, in assenza di questo sbocco politico, dicevo, un numero crescente soprattutto di giovani che aderivano ai fratelli musulmani, che era un movimento islamista sì, ma dell'islam politico più moderato, stanno scegliendo la strada del terrorismo e quindi rendendo sempre più, come dire, non c'è più alternativa allo scontro vero e proprio, allo scontro armato, a quella guerra che il generale al-Sisi da ieri sera ha cominciato a combattere con tutti i mezzi della guerra nel Sinai, perché ha deciso appunto di fare un'offensiva militare vera e propria, cercando il tentativo di riprendere il controllo di quell'area del Sinai occidentale. Il problema è che con questa forma di terrorismo non è detto che gli F-16 e i carri armati siano sufficienti. Grazie ad Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, per questa analisi. Noi ci fermiamo, c'è il traffico, subito dopo torneremo a parlare di terrorismo, ma di terroristi di casa nostra, per così dire. Dopo l'operazione di ieri ci sono alcuni elementi importanti che emergono, ne parleremo con Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, a tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È stato accolto il ricorso di Vincenzo De Luca, può fare il presidente della Campania, aprire la legislatura, varare la giunta. Stanno arrivando adesso le parole del giudice. La sospensione non può tradursi in una revoca delle elezioni o in una rottamazione degli organi della regione. E la legge Severino va cambiata, dice intanto il presidente dell'autorità anticorruzione nella sua relazione annuale. Sui piani delle amministrazioni, quelli anticorruzione, aggiunge, sono ancora insufficienti. Parla Varoufakis, se vince il no al referendum riparte il negoziato, ma nell'accordo deve esserci la ristrutturazione del debito. Tunisia, una dozzina di arresti per la strage nel resort. Vittorio Daroldi, inviato del Sole 24 Ore in Grecia, bentornato ai nostri microfoni, ormai un appuntamento quasi fisso. Vittorio, buongiorno. Calimera, buongiorno da Atene. Buongiorno. Allora, dice Varoufakis, se vince il no al referendum riparte il negoziato. Ti sembra una dichiarazione credibile o è più probabile invece che la Grecia venga spinta fuori dall'euro se vince il no? Effettivamente la posizione di Yanis Varoufakis è sempre stata vista in questo modo, cioè spingere i creditori internazionali oltre le richieste che erano state sempre quelle tradizionali di tagli alle spese aumenti delle tasse e tagli alle spese pubbliche. Ma nel momento in cui siamo di fronte a una scelta così drastica, gli ultimi sondaggi danno in vantaggio al 47% i sì rispetto al 43% dei no, perché naturalmente le code ai bancomat, le difficoltà nel distribuire la pensione ai pensionati che non sono finiti appunto di strumenti di carta di credito o di bancomat, sta creando molta situazione di emergenza e di difficoltà. Ma chiedere appunto alla gente di dare un giudizio su un piano fatto di 40 pagine, complicato, scritto in burocratese e soprattutto dove le distanze delle parti non erano poi così distanti, così eccessive, si risolve in un sì o un no, cioè dentro l'euro, fuori dall'euro. Il giorno dopo, naturalmente, se dovesse vincere il no, molti temono che sia l'inizio di una crisi di liquidità e poi soprattutto una difficoltà nel trovare una soluzione, perché non si capisce perché i creditori dovrebbero cambiare la posizione nel momento in cui il governo abbia semplicemente avuto una conferma di un sostegno che però aveva già avuto alle elezioni. Vittorio, abbiamo avuto poco fa la notizia che il presidente greco ha rinunciato alla sua visita di Stato che era prevista per martedì in Germania, doveva vedere il presidente tedesco. Dai a questa notizia un significato diplomatico o semplicemente il fatto che saremo a poche ore dal referendum e il giorno dell'annunciata riapertura delle banche costringe il presidente greco a rivedere l'agenda, o ci sono tutti e due gli elementi? Non c'è un elemento sostanzialmente di presidiare la situazione naturalmente dal palazzo presidenziale, che è proprio di fianco al palazzo del governo. Il presidente viene dalle file del centrodestra, quindi eletto in una maniera diciamo di unità nazionale, quindi in questo momento una figura molto importante che resti al suo posto in una fase molto delicata di questo paese, che lo ricordiamo è da 5 anni in una grave recessione sia economica e naturalmente con degli effetti sociali sulla popolazione devastanti. Quindi penso che sia semplicemente un atto di cautela nel momento in cui naturalmente ci sono code, come vi dicevo, ai bancomat, situazione difficile dal punto di vista politico, anche se l'ordine pubblico è tranquillo, la situazione sì. non presenta situazioni diciamo di emergenza. Sì. La sera ad Atene i turisti girano tranquillamente, i musei sono tutti aperti, la situazione quindi non ha elementi di difficoltà o di emergenza. E Atene tutte, o se non ci sono altre domande da studio. No, non ci sono altre domande e ti ringrazio. Grazie a Vittorio D'Aroldi, inviato del Sole 24 Ore ad Atene. E seguiremo attentamente e vi ricordo tra l'altro che domenica sera, nelle ore successive al referendum, Radio 24 dedicherà uno speciale proprio al referendum greco. Adesso siamo qua, come vi abbiamo raccontato, ad Expo nel padiglione di Federalimentare, Cibus e Italia. Siamo ad Expo e parliamo di un tema che tocca parzialmente quelli di Expo. Parliamo di agricoltura, ma dello sfruttamento in agricoltura. Perché? Perché questa mattina è stata presentata qua ad Expo un'indagine realizzata dalla Caritas, che è un unicum, perché sono state interpellate 1300 persone, 1300 migranti che arrivano in Italia e poi vengono sfruttati dai caporali in un lavoro di 6 mesi che ha portato appunto le roulotte della Caritas e i camper della Caritas, le camionette della Caritas in giro tra queste persone per raccogliere le loro testimonianze. E che cosa ne emerge? Ne emergono condizioni drammatiche, sono state raccolte molte testimonianze di uomini, perché le donne sono segregate in maniera ancora peggiore, a volte subendo violenze sessuali, operazioni non volute come gli aborti, storie per esempio di una convivenza forzata e anche di difficoltà abitativa. Pensate che il 40% di queste persone coabita con un numero di persone compreso fra 11 e 50, qualcosa che per noi è semplicemente inimmaginabile. Vogliamo però una testimonianza diretta dal territorio ed è in studio con me Vincenzo La Monica, che è della Caritas di Ragusa, una delle sezioni, per così dire, della Caritas che si è occupata di tutto questo, perché a Ragusa il problema è particolarmente forte. Ci dà un quadro della situazione da voi, La Monica, per favore? La situazione da noi è che si produce in serra, quindi è una produzione slegata dalla stagionalità che di solito contraddistingue il mercato agricolo. Da noi si produce per circa 12 mesi l'anno continuamente. Questo fa sì che non si verifichino gli spostamenti dei migranti stagionali di zona in zona, ma che rimangano collegati alla produzione in serra. Significano circa 20.000 persone. Questo vuol dire, mi scusi, che il caporalato c'è tutto l'anno sostanzialmente. Il caporalato, poiché noi abbiamo una piccolissima proprietà, da noi assume delle connotazioni poco visibili, nel senso che sono pochissimi, perché non c'è la necessità di avere molte persone nel periodo della raccolta, ma c'è la necessità di avere poche persone per tutto l'arco dell'anno. E quindi il caporalato da noi non c'è quasi, viene quasi gestito in maniera intrafamiliare. Quello che si verifica invece è un pesante sfruttamento lavorativo e un ancora più pesante sfruttamento di tipo sessuale che riguarda molte donne. Noi abbiamo 5.000 donne rumene che lavorano nelle serre e una concorrenza che si è venuta a creare negli ultimi anni tra comunitari che non hanno bisogno del permesso di soggiorno collegato a un lavoro e non comunitari che invece erano presenti da circa 30 anni sul territorio e che si sono trovati questa concorrenza dei rumeni che lavorano per molto meno, alcune volte anche cedendo a ricatti sessuali. 5.000 donne, ci diceva, appunto, con episodi di sfruttamento sessuale, tra l'altro testimoniati anche da alcune inchieste, se non ricordo male, no? Esattamente, esattamente, sì, ci sono delle inchieste per cui sono stati arrestati alcuni datori di lavoro. L'ultima, più recente, insomma, avete visto una donna rumena che è stata costretta ad abortire per 4 volte dal suo padrone, li chiamano significativamente così padroni e non datore di lavoro, e quindi è riuscita a denunciare e quindi ora si andrà a processo. Ma quello che è ancora più drammatico è che questo possesso del corpo femminile assume varie sfaccettature, alcune riguardano proprio l'idea che la donna sia un oggetto e non tanto lo stupro che avviene in mezzo ai campi, in quanto il fatto che quella donna è mia, mi appartengono le sue braccia, il suo corpo, la sua una psiche. Condizione di sostanziale schiavitù. Schiavitù, certamente. Di sostanziale schiavitù. La ringrazio, grazie per la sua testimonianza, Vincenzo La Monica, da Caritas di Ragusa. È il 2015 e questo è un pezzo purtroppo dell'Italia. Ci troviamo tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Accolto il ricorso di Vincenzo De Luca, può dare il via alla legislatura in Campania, varare la giunta il 17 luglio l'udienza per la decisione di merito. La sospensione, dice il giudice, sarebbe un'abnorme revoca delle elezioni. La legge Severino va cambiata, dice intanto il presidente dell'autorità anticorruzione nella sua relazione annuale. Varoufakis, se vince il no al referendum riparte il negoziato, ma nell'accordo deve esserci la ristrutturazione del debito. In Tunisia una dozzina di arresti per la strage nel resort mentre proseguono gli scontri tra l'esercito egiziano e l'ISIS nel Sinai. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Vi avevamo annunciato un'intervista col procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti. Abbiamo qualche problema di collegamento, vedremo se riusciremo a ripristinarlo per la fine della trasmissione. Intanto occupiamoci di altro, occupiamoci del premio Strega. Stasera avremo il vincitore. I libri finalisti sono 5, ma gli scrittori presenti stasera al Ninfeo di Villa Giulia saranno solo 4. E sì, perché quest'anno a contendersi il premio più ambito dagli scrittori c'è anche Elena Ferrante, l'autrice dall'identità misteriosa e mai apparsa in pubblico. C'è da scommettere dunque che sarà uno degli argomenti di gossip della serata. La vittoria sembra annunciata e dovrebbe andare al candidato Einaudi Nicola La Gioia con il romanzo La Ferocia. Questo perché, lo ricordiamo, lo Strega è in genere vinto dal gruppo Mondadori, di cui Einaudi fa parte, o dal gruppo Rizzoli, che quest'anno concorre con il marchio Bompiani e lo scrittore Mauro Kovacic. Altro argomento di discussione stasera sarà sicuramente l'acquisizione di RCS Libri da parte di Mondadori. Cosa succederà dal prossimo anno allo Strega? Mondazzoli piglia tutto? Per quanto riguarda quest'anno, gli altri candidati sono Fabio Genovesi, con Chi manda le onde, Mondadori, e il dentista Marco Sant'Agata, Guanda. A decidere il voto, con spoglio pubblico, i 400 amici della Domenica, persone del mondo della cultura, a cui si aggiungono 60 lettori forti scelti dalle librerie. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo aver parlato di libri, parliamo di altri media, a partire da quelli più tradizionali. La BBC, è una notizia diffusa da Sky News, ha intenzione di tagliare 1.000 posti di lavoro perché ha un buco di bilancio da 150 milioni di sterline. La conferma, secondo Sky, sarebbe arrivata anche dal direttore generale dell'emittente radio televisiva pubblica britannica, Tony Hall. E per parlare di altri media non proprio tradizionali, dopo 1.000 annunci è ufficiale, ottobre Netflix arriva in Italia, il popolare servizio di streaming video online sarà accessibile dal nostro paese, lo ha presentato in anteprima a Milano il vicepresidente Joris Evers, sentiamolo, intervistato da Marta Cagnola. La TV tradizionale è stata più o meno la stessa negli ultimi 60 anni. È giovedì sera, sono le 8, ecco cosa puoi vedere su questi canali. Ora è il tempo di cambiare le nostre abitudini grazie a Internet. Si mette lo spettatore al centro dell'esperienza di visione. Non è solo quello che fa Netflix. Ci aspettiamo che tutti i broadcaster definiti lineari si spostino in rete nei prossimi 10-15 anni. Ma quali saranno i prezzi per il servizio in Italia? Non so ancora quali saranno i prezzi italiani. Ottobre è ancora lontano. Per esempio, in Olanda si parte da 7,99 euro al mese per uno schermo in standard definition, 8,99 euro per l'HD e due schermi e 11,99 euro per il 4K su quattro schermi contemporaneamente tra TV, tablet e telefonini. In Italia le vostre serie più famose, Orange is the New Black e House of Cards, vanno già in onda su Mediaset e Sky. Questo per voi rappresenta un problema? Da una parte ci piacerebbe avere quelle serie e i nuovi episodi, ma dall'altra il fatto che queste serie vadano in onda sulla TV tradizionale per noi è quasi una pubblicità. La gente le associa a Netflix, anche se vanno in onda su Sky e Mediaset. Così l'intervista di Marta Cagnola a Joris Ivers per l'arrivo ottobre di Netflix in Italia. Una notizia appena diffusa dalle agenzie, la prima reazione su Facebook di Vincenzo De Luca alla sentenza, o meglio non è la sentenza, scusate, il blocco della sospensione dalla carica di presidente della Campania. Poi il merito su tutto questo verrà deciso, come vi abbiamo raccontato, il 17 di luglio. Dice De Luca, oggi si ripristina rispetto della volontà popolare e si apre la fase del lavoro e dell'impegno amministrativo pieno. Su questo tema è intervenuto in realtà anche il Movimento 5 Stelle con Luigi Di Maio, dice inutile gridare alla vittoria su De Luca, nei prossimi giorni ci saranno altre udienze nelle quali il risultato potrebbe essere ribaltato. Ci sono dei dati interessanti arrivati questa mattina, innanzitutto quelli dell'ANIA, che è l'associazione che raccoglie le compagnie assicurative. Sono quasi 4 milioni i veicoli cosiddetti fantasma, ossia senza assicurazione auto. Sono 3,9 milioni per l'esattezza, senza copertura nel 2014, l'8,7% delle auto circolanti, in progressivo e preoccupante innalzamento, dice l'ANIA, rispetto ai 3 milioni e mezzo nel 2013 e ai 3,1 milioni nel 2012. La quota è alta al sud al 13,5%, dell'8,5% al centro e del 6,2% al nord. E a proposito di dati, ci sono quelli sui prezzi delle abitazioni, diffusi questa mattina dall'Istat. Nel 2015 si conferma la tendenza al ribasso dei prezzi delle abitazioni in atto da più di 3 anni. Nel primo trimestre l'indice dei prezzi delle case acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, è diminuito dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2014. È quanto risulta dalle stime preliminari dell'Istat. Come accade dagli inizi del 2013, anche nei primi 3 mesi del 2015 la diminuzione tendenziale è dovuta sia ai prezzi delle abitazioni esistenti, meno 3,8%, sia a quelli delle abitazioni nuove, meno 2%. Quello registrato nel primo trimestre del 2015 è inoltre il 14° calo congiunturale consecutivo. Con queste stime preliminari, il calo dei prezzi rispetto al 2010 raggiunge il 13,7%. Per il Codacons, anche se i prezzi scendono, in Italia è sempre più difficile acquistare una casa, sia per le giovani coppie che per i single o per chi non dispone delle garanzie sempre più elevate richieste dalle banche. Negli ultimi anni i mutui per l'acquisto di abitazioni concessi dagli istituti di credito sono calati del 72%, passando dai 62,7 miliardi di euro del 2007 ai 17,6 miliardi di euro del 2013. E anche se nell'ultimo periodo si è registrata una lieve inversione di tendenza, questa è del tutto insufficiente a far riprendere il mercato immobiliare. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'ultima nota prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade. Avrete sentito, per chi è un ascoltatore della Zanzara, ma non solo, le parole di ieri del presidente della Samp, Massimo Ferrero, che aveva augurato la morte a Pulvirenti. Ebbene, Ferrero precisa adesso in un'intervista all'Ansa, dopo tante polemiche che ha suscitato, ha augurato la morte al calcio malato, non certo alle persone fisiche. Sono basito e dispiaciuto. Un conto è la situazione radiofonica La Zanzara, un altro il testo scritto. Sono frasi dette, spiega al telefono, in un contesto allegorico. Traffico.